Chi compra un indumento non sempre ha il dono di guardarlo e commisurarlo immediatamente al proprio corpo. Non è solo questione di misure, a volte è anche una questione di stile. A vederlo sembra andar bene, piace, la misura è la sua, però addosso non va. Stride con la persona, stride con i modi di fare, stride con il carico di cultura che quel corpo biologico si porta dietro. Per questo ci sono i camerini. Ogni negozio di abbigliamento ha ricavato uno spazio, solitamente esiguo e solitamente munito di specchio, perché i clienti si provino la merce che desiderano acquistare. Anche il negozio dove l'altro giorno volevo comprarmi i jeans aveva i suoi camerini, 4, uno di fianco all'altro, 4 tendine, 4 loculi con specchi e 4 cartelli. So che c'erano 4 cartelli tutti uguali, perché una volta entrato l'ho letto e perché più che provare i jeans ho voluto verificare se il cartello c'era anche negli altri 3. Il cartello diceva: in questo negozio è stata installata una telecamera a circuito chiuso nel camerino. Nello stesso camerino dove per provarmi i jeans avrei dovuto come minimo rimanere in mutande, nello stesso camerino dove qualcun altro avrebbe potuto provarsi, che so, un reggiseno. Guardo in alto, a destra, a sinistra, e ovviamente di telecamera non c'era traccia, figuriamoci. La contraddizione è curiosa e rivela a tutti il suo retroterra ideologico. Il rispetto dell'intimità altrui ovviamente esige che nessuno possa essere filmato mentre si spoglia, ma l'avviso dell'esistenza di un sistema di filmatura viene esposto proprio nel posto in cui tale sistema non può funzionare. Presupposto allora è che il cliente sia ladro, che usi il camerino non per provarsi un indumento ma per indossarlo sotto i propri e di sgattaiolare via al momento opportuno senza pagare. L'informazione allora in quanto tale è del tutto inutile. Si tratta non di un'informazione ma di un deterrente ideologico, la dimostrazione che chi comunica sa qual è la tecnica del ladro, l'ostentazione di una consapevolezza e la speranza che ciò serva a scoraggiarlo, una preghiera in forma intimidatoria. Arriviamo anche a questo. Una preghiera in forma intimidatoria, colto da improvvisa tristezza, ho rinunciato ai jeans.